Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di soldi, parliamo di fondi di investimento, parliamo di grandi capitali. E lo facciamo con Pierangelo Da Crema e Marco Lossani, che hanno scritto l'uno il libro Il miracolo dei soldi e l'altro I fondi sovrani. Pierangelo Da Crema, buonasera Da Crema. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Pierangelo Da Crema è professore ordinario di economia degli intermediari finanziari all'Università della Calabria, ha scritto altri libri come La dittatura del PIL, La morte del denaro e adesso con questo miracolo dei soldi, come nascono, dove vanno, come si moltiplicano, fa un po' la storia del denaro quello concreto, delle banconote, delle monete, quello che è un po' la base di quello che viene chiamato giustamente il capitalismo e quindi anche dei capitali. Quindi una storia del denaro che dalle origini ai nostri giorni, illustrando anche il ruolo delle banche centrali, come viene emessa la moneta, cos'è la politica monetaria. Allora, Da Crema, perché questo libro in questa fase, dopo la crisi economica, una crisi che purtroppo è ancora presente, l'exit strategy è abbastanza difficile, com'è cambiato il denaro con questa crisi? Ecco, io pensavo che potesse essere utile una riflessione sul denaro dopo questa crisi di livello planetario, proprio perché mi sono reso conto che non tutti sanno esattamente cos'è il denaro o qual è la sua nascita, come dal denaro è nato il concetto di moneta e come la moneta è stata vissuta da tutti noi nel corso dei secoli anche in modo un po' acritico e quindi mi sembrava un momento da cogliere, ecco, una riflessione sul denaro e sulla moneta in un momento post-crisi in cui è emerso con una certa chiarezza il fatto che la moneta non è onnipotente e certo. Mi è venuto anche da chiedermi se, contrariamente a quello che pensano un po' tutti in modo anche inconsapevole, non fosse neanche immortale. Ecco, in questo senso ci sono in fondo due prospettive in questo libro. Da una parte quello che viene chiamato il sogno dell'unificazione monetaria mondiale, cioè quello di andare oltre la stessa moneta unica europea e fare una moneta unica mondiale, dall'altra la possibilità che si possa fare a meno del denaro, che il denaro possa essere sostituito da strumenti elettronici da una parte, ma anche da una società che non si basi più sul denaro. Cominciamo dalla moneta unica mondiale, è un'utopia? Non credo, anzi mi stupisce come all'indomani delle enormi difficoltà che il mondo del denaro e il mondo di chi lo utilizza ha subito nel post-crisi, nessuno si concentri su un progetto come quello dell'unificazione monetaria mondiale che potrebbe davvero essere l'ultima e magnifica innovazione del mondo del denaro. Mi colpisce perché le difficoltà dovrebbero suggerire o accelerare le innovazioni vere. Dall'altro lato, dopo l'unificazione monetaria mondiale, che mi auguro che possa insomma avvenire in un arco di tempo ragionevole, parlo di anni e di decenni, non certamente di mesi, dall'altro lato io credo che ci si debba rendere conto del fatto che dopo quest'ultima possibile innovazione non ci sia nulla di sperimentabile nell'ambito del mondo del denaro e della moneta e quindi si debba sfociare verso rapporti fiduciari più sofisticati e più legati insomma all'evoluzione della nostra civiltà, quindi perché no all'abbandono, ecco, della moneta come strumento. Come strumento, infatti si parla negli ultimi capitoli di uno strumento sempre più veloce, sempre più leggero, qualcosa che non è più un fine, in fondo arricchirsi è stato un fine per molte generazioni, ma uno strumento che sia appunto un modo solo di scambio, un modo necessario per scambiare, ma non solo l'unico, ci possono essere altri tipi di scambi, altri tipi di rapporti economici che prescindano un po' del denaro, Da Crema. Certo, è vero, perché lo scambio è un fatto ineludibile, è un fatto che ha segnato l'evoluzione dell'uomo e che continuerà a contraddistinguere il suo livello di superiorità rispetto a qualsiasi altro animale. Però la moneta rischia di diventare una gabbia. Molti trascurano il fatto che il mondo della moneta è un mondo molto costoso da tenere in piedi, e quindi dato che ho molta fiducia nella capacità dell'uomo di evolversi, di trovare strumenti sempre più sofisticati di scambio, io sono abbastanza fiducioso circa il fatto che la moneta, come qualsiasi altro frutto e prodotto dell'ingegno, possa essere un giorno superata. Ecco, in fondo questa crisi economica ci ha insegnato che è molto rischioso pensare di fare il denaro con il denaro, di fare i soldi con i soldi, cioè la finanza come valore assoluto è stata in fondo smentita clamorosamente e ha trascinato in questa smentita anche l'economia reale. Da questa crisi si può uscire con una visione più concreta, più costruttiva dei rapporti economici? Io me lo auguro, questa crisi è stato un monito enorme, adesso mi viene in mente l'espressione un po' colorita, ma adesso con tutti i difetti che può avere il nostro attuale ministro dell'economia, mi riferisco a Tremonti, quando ha parlato di una possibile spaventosa, diciamo, Armageddon finanziaria, ha usato un'espressione insomma molto evocativa, molto immaginifica. E io ho molta fiducia nella capacità degli uomini di correggere i propri errori e di saper riflettere insomma sulle proprie capacità e sui limiti delle proprie capacità. Questa crisi finora non possiamo dire che sia stata utilizzata molto intelligentemente come momento di riflessione, di autocritica, però come diceva lei giustamente, questa crisi la si sta ancora vivendo, è presto per poter affermare che non ha lasciato nulla. Io credo che tuttora i riverberi della crisi possano agire non solo purtroppo molto negativamente sul piano dell'occupazione e sul piano del benessere, ma anche positivamente come strumenti di riflessione. Ecco, una crisi questa che ha portato alla ribalta anche la realtà appunto di un denaro scambiato a livello internazionale attraverso grandi fondi, i fondi sovrani sono tra questi. Adesso parliamo con il professor Lozzani, non prima aver salutato Pierangelo da Crema, autore del libro Il miracolo dei soldi, dove nascono, dove vanno, come si moltiplicano, edito da Etas, 210 pagine per 17 euro. Grazie professor da Crema. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Arrivederci. Ringraziamo il professor da Crema, parliamo sempre di soldi con il professor Marco Lossani. Buonasera professor Lossani. Buonasera a lei. Marco Lossani, professore di economia internazionale, di economia dei mercati emergenti presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, ha scritto insieme a Fabio Bertoni e Stefano Chiarlone il libro Fondi sovrani, economia emergenti e squilibri globali. Dopo la crisi, ovviamente dopo la crisi, speriamo, anche se la crisi è ancora presente nel nostro orizzonte economico, indubbiamente i fondi sovrani hanno avuto e avranno un ruolo importante, speriamo in un'ottica di riequilibrio. Ma ricominciamo con il professor Lossani, cercando di specificare che cosa si intende quando si parla di fondi sovrani. Ma si intendono questi fondi di investimento che sono stati creati da diversi stati sovrani, localizzati primariamente in alcune regioni emergenti del mondo, anche se si ritrovano anche all'interno di nazioni più industrializzate. E questi fondi di investimento gestiti appunto da questi stati hanno un obiettivo, che è quello sostanzialmente di diversificare le loro riserve ufficiali, accrescendone il rendimento rispetto a quello che normalmente si ottiene mantenendo le riserve ufficiali in forma molto liquida. Quindi sono fondi di paesi dove c'è una grande disponibilità di capitali, per esempio i paesi produttori di petrolio. Sì, primariamente i fondi sovrani sono localizzati all'interno delle regioni che producono petrolio, ma non solo, perché negli ultimi anni ci sono stati molti fondi sovrani costituiti anche all'interno di economie emergenti asiatiche, che non producono petrolio ma che riescono a realizzare forti avanzi di bilancio di pagamenti grazie a queste massicce esportazioni di beni manufatti, e quindi la Cina è chiaramente una di queste nazioni coinvolte nella costituzione di fondi sovrani. Ecco, allora il rischio è che questi fondi sovrani non svolgano solo delle operazioni di investimento badando alla logica propria dell'investimento, quindi di massimizzare il rendimento, ma possano avere anche un ruolo politico, essendo dipendenti da poteri politici. Sì, difatti questa è la preoccupazione che ha pervaso gran parte del mondo occidentale quando si parlava molto di fondi sovrani prima dello scoppio della grande crisi, e molti erano preoccupati dal fatto fatto che in realtà non ci fossero solo degli obiettivi economici connessi alla gestione di questi fondi, ma anche degli obiettivi politici non del tutto chiari, anche perché spesso appunto questi fondi hanno sede all'interno di nazioni che non sono del tutto democratiche, quindi il rischio che si intravedeva era esattamente di questo tipo. Ecco, hanno comunque già adesso una forte presenza a livello di mercati finanziari. Sì, difatti molti si sono divertiti a cercare di calcolare quale fosse il peso di questi fondi sovrani rispetto alla dimensione dei mercati e sono usciti dei numeri che confermano che questi sono dei veri e propri power brokers, come li ha definiti McKinsey un po' di tempo fa, cioè degli agenti influenti che grazie alla dotazione così cospicua di risorse possono influenzare entro certi limiti l'andamento dei mercati o più in particolare l'andamento e la gestione delle società in cui decidono di investire. E quindi si parla anche di una possibile regolamentazione, già alcuni paesi prevedono dei limiti agli interventi stranieri su aziende considerate strategiche, però forse la regolamentazione attuale è ancora molto limitata. Sì, anche se negli ultimi tempi sono stati fatti dei passi in avanti abbastanza consistenti. Proprio all'indomani dello scoppio della grande crisi è stato stilato questo documento che viene normalmente ricordato con il nome di Principi di Santiago. In questo documento sostanzialmente i paesi in cui hanno sede i principali fondi sovrani si sono dati un codice di autoregolamentazione e dall'altro lato c'è anche da dire che l'OCSE è riuscita molto velocemente a raggiungere tutta una serie di accordi su i principi che dovrebbero invece regolare i paesi che ricevono questi investimenti realizzati da parte dei fondi sovrani. Quindi rispetto a un recente passato direi che siamo abbastanza avanti per quanto riguarda la regolamentazione. Quindi per concludere possiamo dire che attualmente possono essere considerati più un'opportunità che non un rischio? Ma direi di sì, nel senso che rispetto ai grandi timori e anche le grandi speranze che si erano espresse a cavallo dello scoppio, immediatamente dopo lo scoppio della grande crisi, direi che al giorno d'oggi si può esprimere un giudizio di moderato ottimismo rispetto a quelle che possono essere le conseguenze che derivano dall'operato di questi fondi, cioè potrebbero garantire tutta una serie di opportunità. Con questa nota di ottimismo ringraziamo il professor Marco Rossani che insieme a Fabio Bertoni e Stefano Chiarlone ha curato il libro appunto Fondi Sovrani, Economia Emergenti e Squilibri Globali, edito da Francesco Brioschi editore, sono 220 pagine per 19 euro. Vi ricordo che nella prima parte del programma abbiamo parlato con Pierangelo da Crema del Il Miracolo dei Soldi, Etas editore, 220 pagine per 17 euro. Grazie al professor Rossani, grazie al professor da Crema, grazie a quanti ci hanno seguito e a Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo anche che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.